attaccata alla ringhiera, no? Mica si tiene in mano. No, è attaccata alla ringhiera, deve essere. E adesso più meglio, adesso sì. Quando l'hai fatto tu? Vabbè, sei fondo scala. Adesso. Fondo schiena, cappa. Speriamo che vacca, speriamo. Perché? Perché devo smontare l'altra, adesso mi organizzo un tubo. Lo schiaccio, gli faccio due buchi, l'attacco con la tappa che mi ha dato su un palo, boh, anche 50 centimetri e gliela metto lì. Anche signor Narciso, buonasera. Mi ascolti stasera, con i piedi senza piedi. Cos'è signor Narciso? Mi ascolti con i piedi senza piedi. Ah, dipende da lei. Arrivo. Ho sentito al telefono stamattina, l'ho sentito. Perché entrava stasera, ci sentivamo stasera. Sono ancora con il mio nome. No, sei sempre sacro, signor Bacchino. Attimo solo, solo. Ah? Ok. Oggi fu preso, no? Adesso sono sacro? È un pochino. Allora, ho avuto un po' di mezzo di voi. Insomma, potresti andare bene. Vado un po' più dura così, eh. Sarà così e come così. Sì, è cosa? Tutto va bene. Andemmo. Quanto sono, non so. Cos'è il tuo giardino che ti ha compreso? Che sono 40.000. Lo so che il segnale è forte. È la radio che non mi piace. Adesso che ti dico in controllo. Parla a vedere che non ha di compreso. Ecco, vedi, è un minuto ancora, è andato ancora un altro giro. Che cosa, di mai di lì? Aspetta che abbasso quello là. Passa tutto, spegni tutto, e vai a dormire. Non riesci a comprendere nulla. Buonasera. Buonasera, Gian Maria. Come ce la va, signor Bacchidio? Se la va bene. Sto provando questo microfono montone che dice che sono sacro. Adesso cambia, vedrai che dopo lo sentiti bene. A me bene mi senti? Russo, diciamo lì, russo. Bene, si va. Mi fa piacere. Adesso vedrai che sentiamo anche a Torre Bene. Passiamo a cacciare l'altro. No, io già sono qua, sono sempre con questo. Adesso riesco a capirlo bene, ma ancora non riesci a comprenderlo. Alto, ci siamo sopramodulati. A me bene mi senti tu? Sì, abbastanza bene. Allora siamo tranquilli, cara. È strano che Bacchiccio ti sente male. Sto sento bene, Alto, è perfetto. Sia te, Alto, io mi riascolto bene tutti e due. Così è. Vedo un po', Alto, Era Bacchiccio che non ascoltavo bene poco fa. Ma adesso l'ascolto. Ti ha migliorato, dai. Va bene. Provando perché ho sentito proprio il punto giusto. Che adesso tranquillo, Infatti, è così. Aspettano sull'altro, va. Cazzo, non basta. È solenne, un attimo, Otto. Adesso è meno. Però, signor Bacchi. Attenzione, Tore, break. Avanti signor Marino. Signor Marino. Break. Avanti ha detto. Cappa, io non sono Marino. Buonasera a tutti, doppio RU. Sto provando un'antenna. Mi puoi dare un controllo per favore, Tore? Mi sei arrivando Santiago 5, la radio bassa. Bacchiccio, come ti arrivo? Dal quadrante, già la palatera. 4, 5, non di più, la radio è bassissima. Kappa, grazie. Grazie per il controllo. Prego, signor Gianni. Vediamo se c'è Marino. Attenzione, signor Marino. Lo stai facendo lì. No, stamattina mi ha chiesto al telefono, mi ha chiesto se c'avevo il coso, come ti si chiama, il motor picco che sa elettrico. Già viraggio, ma se fermo. L'ero trattenne, ma mi ha fatto mezz'ora a bugia sudato. Non funziona, lo devo aprire e guardare cosa c'ha. Le spazzole sono, dottore. E adesso come c'ho un minuto di tempo lo apro e guardo a vedere cosa c'ha. Perché lui ce l'ha, dice che è troppo pesante. Domani mattina per passare qua glielo do io, dai. Te l'avevo apprezzato, già un mese è ancora arcata a regami nero. A tutti gli immagini, dai, appresti la cosa, da poi si mette che sei tornato, no? Ah, tu hai dovuto telefonare, tu regami nero immediatamente, cazzo, a che si lo so capo di tu, e già mi ha regato bene o male. Allora, ti presta a marito, domani manda la versi di voi e si piglia. Purtroppo. Ma niente, fate finta di dimenticarsi, fate finta, mi compreso. E poi non te lo tornare più. Io non avevo apprezzato uno, a uno, e non l'ho più visto. Marcello, cazzo un mese per avere. E se non l'abbia telefonato non mi l'abbia regato, a farti cazzare anche. Cazzo, ti posso sentire da poi dimenticarti di... Non lo sa che è così, Gio Mario. Fa tenere finta di dimenticarsi, fa di essere invece per le ciotte nel miro. E lo si è andando, hai capito? Avanti, signor Bacchi. Oggi la gente mi ha dato con due camicie e toro. E ha fatto un po' tutto. Mi viene il nasce in medicheggia. Non lo sa capire, tanto la cosa che non si presenta. E se in medicheggia mi cercavo. Fatti così. Fatti così, se ne dimenticheggiare di arrivederci a Dabur. No, non me l'ha donuto a me, no. Mi ho preso. Quando verrai un anno. Ma se ne dimenticheggiare, non se ne dimenticheggiare. Fatti un vento, mi dica sì, si fa senza lavanderia e si vuole. Sì, se è vero. Vero, Giammarì. E allora, faccio tutte le immagini. Cazzo, te la fai dai padri dell'asse, capito? Così allora ti puoi pure abusare, cazzo, non so che... È così, purtroppo, vabbè, insomma, per la prossima volta devi arrivederci. No, non lo puoi dire, ma qua è pagato, che tu sei nel sette, capito? Cazzo, se non l'abbia telefonato, non viene via regato, cazzo. Che può entrare, di proposito. Aspetta, sopravvo due asi e divoni. Aspetta, bobo. Andate bene, avanti, signor Bacchi. Siamo cantanaia e una pesa, 5 e 3 a 6. dei pinocchi. Ti stava sopra modulare, cercando sopra modulare, ma non vedi. Là c'è una potenza, che potenza. Si ribolla buzza perché sono piccolo e nero, che attacchi. Non siete a fare, piccolo e nero. Sei come il cammiero. Ma che immagine di taglietti, non lo so chi è. Bella male la persona che ti difendi. Ma andare avanti, signor Bacchi. Torniamo indietro, Giovanni, perché sono proprio Caminero. Sì, la Caminero pure frequenta. Com'è Bacchi, non c'è più preso? Mi ricordi quando eravamo in frequenza, sono tornato, non ci pico. Sì, la Caminero pure. Ah, così è. Allora, domani cosa abbiamo, sole, venta, pioggia o sole? No, deve passare domani che il glucosio che ha giubiattato oggi deve asciugare il glucosio che ha giubiattato con l'uggimento, quindi mi deve asciugare. Dunque domani è sole? Sì, ha messo sole, ha messo. Mi saccare un po'. Infatti è così. Deve fare un bel po' di sole fino a sabato. Ah, dai, sabato è finita. Senta Gio Maria, va, che sono grumi, che sono messi in mobbiati, e venga il crescente. Ah, sì, oggi stasera sto scherzo in campagna, Bacchi. Sì, ti dico che è tutto lo cacco, ma lo sai, prima si ha la macchina, mi pare di quittare più di cacco. Ma la potrò di tu, la tutta, perché tutti i crepati, tutti quasi, tutto tutto. Non se ne può mangiare, anda a pigliare non se ne fa 30 cazzo innanzi. Andiamo fatta, andiamo e andiamo. Sì, ma d'altra parte sono debole. Ero sempre fermo lì, dice che mi muovevo. Ero sempre lì, soggiorno. Aspetti un attimo. Lampu e Beabisese. Ciao Tino, cara Pitina, non è possibile, tutti in letargo sono. Allora, ciao Giù, sono anche io, sono una cosa alla, al PC e ce l'avevo ascolto. Ehi, capito, ma è una radio proprio fortissima, assordante. Addirittura, sono abbastanza speso e sono lontano, un è molto forte, ma va bene così comunque, ma va bene, ma è molto forte. Va bene, la radio qual è? 5555? No, 45. Ah, ho capito, sì, è fortissima, bella, amplificata, va bene, va, altro che se va bene. E dicevano che non funzionava quello in AM, altro che se funziona. Diciamo che ho avuto delle dritte, Giulio, che ho utilizzato per anni, mi ha consigliato come metterlo, sono stato, lui essendo di fuori siamo riusciti anche a sentirci, poi vabbè, anche via telefono, aspetta che stavo andando così di un altro. Sì, sono delle cose da fare, che magari chi non è in grado a allinearlo, Ok, certo. Evidentemente qui non lo conoscevano molto il sistema come appunto regolare. Però va bene, no, va benissimo, io ho voglia, alla grande veramente. Sì, vabbè. Io mi sono sentito come mi hanno registrato, mi hanno mandato. Però vabbè, poi c'è poca. Insomma, si assomigliano anche all'altro, al 555. E poi un'altra cosa, il problema, insomma, via, non è problema, però è una regolazione da fare quando vai in FM, che solamente la M è differente, ecco. Mentre invece con 44 si aumentava anche di più il latte in FM, qua invece partono, diciamo, da 5 watt, 10 watt massimo, credo. Adesso non mi ricordo, quindi devo fare una regolazione per andare bene in FM, ma va bene pure la FM, solo che è meno watt. Spingere una qua, cioè, e devo provare nuovamente. Ok, sì, va bene, ma altro che. No, questo invece il mio ha un difetto al carrier. Se aumento potenza esce con una specie di ronzio, capisco, e non mi dà i watt che deve avere, infatti sto scendendo a bassissima potenza, proprio perché non, se aumento non va bene, insomma, ecco. Come va, sei sparato, qua avrei abbastanza forte, forse arrivi un po' più forte degli altri, Vabbè, con poche watt e tiro, ripeto, non riesco ad avere tutta la massima potenza, ma già da un po' di tempo, perché è un problema al carrier, quando aumenti non ti dai i watt sui, e allo stesso tempo esce con un'alternata proprio, un ronzio fastidiosissimo, cosa che prima non faceva, vabbè, buono rivisto. Poche parole, penso che sia il potenziometro che non funziona molto bene. Sì, anche il mio aveva dei fettori, infatti era da cambiare, da sostituire, e poi ho visto questa qua, tramite un amico di fuori, ho fatto 2 più 2, sono girati, mi prendo una linea e prendo questa è la vetrina, sinceramente parlando è nuova. Unico proprietario, l'ho utilizzata solo lui, infatti mi ha dato delle dritte come utilizzarla, va benissimo, fatta da me per la banda, sicuramente sono usati e fatte per la banda. Penso che anche questa sia fatta per la banda, solo che anche questa qui, magari la M, va bene, quando è a posto va bene. Sì, io vabbè, lo devo far riparare questo, oppure lo devo mettere da parte, perché ripeto, quando aumento il carrier non va più bene, è un problema. Ma me l'aveva già accennato l'amico la volta scorsa, quando me l'aveva aggiustato, che c'era quel difetto lì, però al momento gli aveva dato evidentemente una spruzzatina di quel disossidante per contatti elettrici e andava bene. È andato bene sino all'altro giorno, praticamente è andato bene per altri 2 anni, ma adesso si vede che non va proprio, non lo so, ora sostituito, che ne so. Potrei farlo anch'io, certo, ma io non l'ho mai aperto e dunque non... Vabbè, comunque, non è che mi interessa più di tanto, a me quando mi sento va bene così. Poi il fatto che non dia i watt suoi non mi interessa più di tanto. Tanto anche quando li dava uscivo sempre con basso wattaggio, per cui non è il caso, insomma, ecco. Ci sarò offeso per quello, perché non l'ho usato mai a potenze alte. Ok, ciao a te, alle prossime, ciao ciao, buona serata e buona cena quando la fai, dai. Alle prossime. Ciao, buona serata. Come